quale indosserai. Lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. E sulle onde, sulla musica di Giovanni Allevi, che iniziamo la trasmissione di oggi. Buonasera Anna Maria. Buonasera Rosanna, buonasera a tutti. Bentornata, grazie. Hai fatto filone a febbraio. Mi sono persa una puntata, non sono stata bravissima. No, va bene. Comunque so che ci hai ascoltati dall'Italia, quindi va bene lo stesso. Sono perdonata allora. Sì, sei perdonata. Bene. Anche se ero in mezzo ai vassoi di castagnole. Dolci di carnevale. Sì, guarda. Allora, buonasera a tutti i radioascoltatori dei Colori dell'Anima, che come sapete vanno in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22 in diretta. Questa sera appunto con Rosanna e Anna Maria, lunedì prossimo con Rossella, Tiziana e Leandro, poi ci sarà Cristina, probabilmente senza Barbara, vediamo. E poi ci saranno, invece ci sarà il trio di Angelo, Carla e Cecilia, e noi ritorneremo ancora questo mese, l'ultimo lunedì di marzo, perché appunto in marzo ci sono 5 lunedì. E quindi saremo qui due volte. Due volte. Allora, cara Anna Maria. Cara Rosanna, stasera dunque, non abbiamo ospiti. No, stasera siamo non abbiamo un po' ospiti, tristi. Infatti. Quando abbiamo gli ospiti siamo più contente, però vabbè. Cercheremo di così di resistere a questa tristezza. Nutrire il pianeta, energia per la vita. Che cos'è? Mi dice qualcosa questa cosa. Cosa ti dice? Allora, in realtà noi vogliamo parlarvi un pochettino dell'Expo Milano Expo 2015. Mancano esattamente due mesi, anzi due mesi meno un giorno, perché comincia il 1° maggio. E sicuramente ci saranno molte occasioni di riparlare di questo Expo 2015, anche perché per l'Italia in particolare e per la città di Milano è un grande evento, quindi ci saranno molti fatti, tra virgolette, da raccontare, però magari stasera noi faremo nella trasmissione dei Colori dell'Anima, una introduzione a questa manifestazione, spiegando un po' come è organizzata, come avere i biglietti, insomma cercheremo di dare un po' delle informazioni. Alcune cose, ci siamo informazioni un poco informate, quindi vogliamo rendere un pochino partecipi, perché in effetti, essendo a Milano, un po' lontano, non ci si pensa, magari è un po' fuori mano, invece secondo me vale proprio la pena di fare lo spostamento fino lì, perché è veramente molto molto bella, quello che ho visto, insomma informandomi ho visto che stanno facendo delle grandi cose. Ma Anna Maria, tu sai se questa esposizione c'è già stata a Milano? Vediamo se sei preparata. Ecco, non credo di essere sufficientemente preparata. Va bene, ma giustamente non sei preparata perché insomma ci siamo un po' divise i compiti. Ebbene, c'è stata già a Milano nel 1906. Tu eri ancora piccola, giusto, in quel momento. E c'è stata dal 28 aprile all'11 novembre, quindi del 1906, e più o meno diciamo nell'attuale zona, che poi tra l'altro ha dato origine alla Fiera di Milano, perché effettivamente l'esposizione di quest'anno, Expo 2015, è nella zona della Fiera di Milano, però appunto nel 1906 non esisteva ancora la Fiera di Milano, ma sarebbe sorta quindi nello stesso territorio, alle spalle del Castello Sforzesco. Allora, poi invece ce ne doveva essere una a Roma nel 1942, ma indovina un po', non si svolse a causa della Seconda Guerra Mondiale. E infine ce n'è stata una a Genova nel 92, sempre Expo internazionale, quindi come quello di Milano, dove invece venne costruito l'acquario, che appunto famoso per acquario. Chi lo conosce, io non l'ho mai visto, ma insomma so che è molto famoso. E anche lì, quindi è stata costruita, diciamo c'è stata una grande costruzione che appunto è rimasta dal 1982. Quindi queste sono le altre volte in cui l'esposizione si è fatta o si sarebbe dovuta fare in Italia. E, insomma, è successo un po' come è successo a Parigi, anche la Tour Eiffel è nata per un Expo ed è rimasta lì. E in che anno? Vediamo se sei preparata anche su questo argomento. Ebbene, la Torre Eiffel ci fu, l'esposizione universale, nel 1800. Vedi come siamo in simbiosi. Ci fu nel 1889 e si tenne a Parigi, anche più o meno come quella di Milano, cioè dal 6 maggio al 31 ottobre del 1889. Perché 1889? Perché era 100 anni dopo la rivoluzione francese, che era appunto del 1789, quindi della famosa presa della Bastiglia, ma era anche il 18° anniversario della Terza Repubblica, e quindi ci fu una commissione organizzatrice che decise di organizzare l'evento, che all'epoca costò 41,5 milioni di franchi. Quindi fu costruita questa struttura, che è appunto la famosa Torre Eiffel, con fondi statali e cittadini, ma anche con l'aiuto di una banca. E diciamo che questa struttura, che appunto poi è rimasta, quindi doveva essere una struttura temporanea, che quindi doveva esistere soltanto per il periodo dell'esposizione universale, e poi quindi non solo è rimasta, ma è diventata il simbolo di Parigi. Pensi, se questi parigini non avessero avuto la Torre Eiffel, ma come facevi tu a rappresentare Parigi? Dimmi. È vero, non ce l'hanno il Colosseo, esatto. Non ce l'hanno queste quindi cose. Vedi a che servono le esposizioni universali, a fare dei simboli che poi rappresentano le città dove le esposizioni sono state fatte. E va bene, e invece, quindi questa ovviamente è molto famosa, ma un'altra molto molto famosa qual è? È quella di Bruxelles, l'Expo del 1958, nella quale appunto invece fu costruito il famoso Atomium dall'architetto André Waterkain, che lo stesso doveva durare 6 mesi. Il monumento, quindi l'Atomium appunto, ha un'altezza di 102 metri, le sfere hanno un diametro di 18 metri. Tu sei già stata dentro? Sì, sono stata qualche volta. Anch'io, qualche volta. In occasione di visite di parenti e amici, perché quelli sono i motivi principali. Quindi piacciono le scale mobili che ci sono dentro. Infatti, le sfere sono collegate appunto del diametro di 18 metri o da scale mobili, oppure appunto nel caso di quelle verticali, dall'ascensore anche. Le tre sfere superiori non hanno un supporto verticale, quindi per motivi di sicurezza non sono aperte al pubblico. Dalle finestre della sfera superiore si può godere di una vista panoramica di Bruxelles, naturalmente, e poi appunto da ricordare anche che l'Atomium è stato restaurato, diciamo, in modo abbastanza importante tra il 2004 e il 2006, infatti in quel periodo è rimasto chiuso, però appunto adesso invece si può visitare. E va bene, quindi queste erano, diciamo, due esposizioni molto importanti, quella di Parigi perché la Torre Eiffel la conoscono tutti, ma l'Atomium perché stiamo in Belgio, siamo qua, a Bruxelles, e quindi qua. Ne parliamo. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, giustamente. Giustamente, e va bene. Allora, invece, il brano di Allevi, perché ce l'hai proposto? Dicci. Allora, io devo dire la verità, sono andata a sentirlo, è venuto qui a Bruxelles qualche giorno fa, e ho trovato che queste musiche siano veramente fantastiche. E poi lui è un personaggio particolare, quindi ogni brano che lui suona lo spiega prima, e quindi ci sono delle spiegazioni, racconta. Per esempio ce n'è uno molto carino che lui lo ha dedicato alla sua famiglia, e raccontava giustamente che praticamente era una riunione di famiglia, lui, bisogna dire, è marchigiano. Ah, ecco perché ti piace, di la verità, scusa, dillo, diciamolo. Perché anche Anna Maria, per chi non se ne fosse accorto dall'accento, perché non ha accento, è marchigiana. Ma sono bilingue, volendo. No, scherzo. E comunque, allora, le famiglie marchigiane, come tutte le famiglie italiane, quando si riuniscono sono rumorose, e lui si è trovato in una circostanza, insomma, una riunione di famiglia, e da questa riunione di famiglia, dove c'era della confusione e c'erano dei bambini, lui spiega, ci ha fatto morire, perché spiegava che questi bambini giocavano con una pallina e che la facevano sbattere su una finestra, e da questo lui ha creato un brano che ora sentirete. E come riesce a tradurre tutto in musica è qualcosa di incredibile. E infatti il brano che andremo ad ascoltare adesso si chiama proprio My Family. Voi naturalmente, cari radioascoltatori, rimanete con noi con I colori dell'anima su Radio Alma 101.9 e a fra poco, dopo questo brano di Giovanni Allevi. Eccoci di nuovo qua, io spero che vi sia piaciuto. A me sì, molto. Sono tutte musiche veramente fantastiche. E va bene, allora basta con questo romanticismo, torniamo alle cose un pochino torniamo più terrene. Torniamo a Expo 2015. Expo 2015, esatto. Dobbiamo anche pensare a quale colore associare a questo argomento. Beh, il logo, ci sono tutti i colori dell'arcobaleno, quindi possiamo usare sicuramente dei colori brillanti, il blu, l'azzurro, il verde, perché qui si parla della natura, di un sacco di cose che adesso vi andiamo a spiegare. Ecco, allora spiegaci qualcosa. Allora, dai. L'Expo Milano 2015 è l'esposizione universale che in Italia ospiterà, come abbiamo già detto, dal 1 maggio al 31 ottobre e quindi sarà il più grande evento mai realizzato sull'alimentazione e la nutrizione. Ecco perché questi colori verdi, questi colori così brillanti. Quindi per 6 mesi Milano diventa una vetrina mondiale in cui i paesi mostreranno il meglio delle proprie tecnologie per dare una risposta concreta a un'esigenza vitale, cioè riuscire a garantire il cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli nel resto del pianeta e dei suoi equilibri. Quindi mi sembra che come sfida sia piuttosto importante. Eh sì, piuttosto. Esatto. Infatti, quindi questa Expo Milano 2015 sarà la piattaforma di un confronto di idee e di soluzioni condivise sul tema dell'alimentazione, stimolerà la creatività dei paesi e promuoverà le innovazioni per un futuro sostenibile, ma non solo, offrirà a tutti la possibilità di conoscere e assaggiare i migliori piatti del mondo e scoprire le eccellenze della tradizione agroalimentare e gastronomica di ogni paese. Quindi tutti i paesi sono invitati, sì, per mostrare tutti i prodotti, tutto ciò che producono e, sì, e come, sì, li cucinano questi prodotti. Sì, avevo letto che mi pare almeno 140 paesi avessero risposto a questo invito e quindi appunto ogni paese avrà il proprio padiglione dove, sì, potrà presentare quindi quello che vuole, che però appunto deve essere su non questa solo, tematica, esatto, di nutrire il pianeta. Non solo, ma sembra che, dunque, ci sono, come dicevi tu, intorno ai 145 paesi che partecipano, ma che hanno creato una cosa che è molto carina, che io sono andata a leggere perché non mi era completamente chiaro. Hanno creato i cluster, cioè hanno raggruppato un prodotto e messo insieme diversi espositori di diversi paesi, non so, per esempio il riso è coltivato in tantissimi paesi, quindi li hanno raggruppati per tematica e non soltanto per paesi. Quindi sì, per tematica è appunto come dici tu, riso, caffè, cioè per filiera alimentare, riso, caffè, cacao, cereali, tuberi, frutta e legumi, e poi c'è anche il mondo delle spezie, ma anche per identità tematica, cioè agricoltura e nutrizione per esempio nelle zone aride, isole, mare e cibo, e poi bio-mediterraneo, visto che stiamo in Italia e quindi chiaramente il Mediterraneo ci riguarda da vicino. Però al bio-mediterraneo collegati anche salute, bellezza e armonia. E insomma, a me ha colpito molto guardando così le informazioni. Ah, tra l'altro, ieri sera per un bel po' di tempo il sito web non funzionava. Ah, davvero? Sì. Ho provato varie volte a cercare informazioni, quindi il sito, che è molto semplice, www.expo2015.org, poi se uno mette /IT naturalmente lo trova in italiano, ieri sera non funzionava. Non funzionava? No, quindi... Io ci sono andata oggi a... Ma infatti oggi sono andata anch'io e ho visto che funzionava, ma ieri sera no, quindi già questo insomma mi ha fatto un po' preoccupare, perché... Uno mette su tutta questa organizzazione enorme di persone che ci lavorano, di persone che ci partecipano, e poi vai a vedere il sito, non ti funziona. Vabbè, insomma, sono rimasta un po'... Io l'impressione che ho avuto oggi è stata tutt'altro, nel senso che... ma vedi, infatti... tecnicamente fatto molto bene, semplificato, ma infatti, può darsi che stessero aggiornando qualcosa, diciamo così, speriamo. Io, tra l'altro, avrei anche voluto mandare un messaggio, ma... non potendo accedere al sito, e neanche oggi non c'è un indirizzo dove tu puoi scrivere. Comunque, vabbè, probabilmente se ci fosse sarebbero sommersi da messaggi, quindi magari poi uno questi messaggi li deve anche gestire, deve anche rispondere, e vabbè, non è avranno proprio... una scusa che non sono ancora aperti il primo maggio. Sì, sì. Sì, sì, no, ma insomma, effettivamente so che stanno lavorando a tutto ritmo, anche perché, come ricorderai, ci fu una vicenda giudiziaria attorno a Expo 2015, nel senso che un po' di mesi fa gli appalti per la realizzazione dell'esposizione sono stati oggetti di un'indagine della magistratura milanese, la quale ha condotto a numerosi arresti e all'affidamento della sorveglianza degli stessi al commissario governativo, che si chiama Raffaele Cantone, che è appunto il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. E ci sono stati, cioè, problemi di reati tipo associazione a delinquere, turbativa d'asta e truffa. E quindi sono stati coinvolti vari enti, ma in particolare i vertici delle Infrastrutture Lombarde e di Mantovani S.P.A., che quindi operavano appunto sul territorio lombardo, e persino la regione. Infatti è stato coinvolto in tutto questo anche il presidente della regione, Roberto Maroni. E tra l'altro le vicende di tutta questa legate a questa, diciamo, a questa truffa non sono state ancora completamente chiarite, quindi questo è successo appunto qualche mese fa e ha seriamente compromesso, quindi poi chiaramente c'è stato un intervento di Renzi, di alte personalità, per rassicurare, diciamo, sul fatto che l'Expo comunque ci sarebbe stata. Vabbè, ma insomma questo era un dettaglio, diciamo, adesso è un dettaglio, è importante che sia stato fatto prima, è importante che sia stata bloccata una cosa del genere. Infatti diciamo che, guardiamo dal punto di vista positivo, sono state fatte delle cose importanti prima, ecco, prima che sì, certo, il danno anche fosse perché fatto. È ovvio che attorno a questa Expo 2015 circolano tanti soldi, io non so quanti, ma sono tanti. Credo sono che li possiamo tanti. Immaginare. E, a cominciare ovviamente da chi lavora per l'infrastruttura, proprio perché sono state create delle strutture ex novo, proprio la struttura è stata fatta. E guardando appunto, a parte questo, le informazioni, mi ha colpito molto leggere la pianta di Expo, non so se tu hai letto un po'. No, cioè non la ho pianta letto. Ricorda un po' le strutture, diciamo così, romane, nel senso che è organizzata in strade perpendicolari e parallele, diciamo, proprio tipo le città romane. Fatte in modo veramente molto squadrato. Beh, ma sembra che anche Milano sia stato costruito così. Sì, però una cosa che non c'entra niente, ma mi ricordo quando andai a Chicago 2 anni fa e atterrando fui colpita proprio dall'aereo del vedere queste strade completamente parallele e perpendicolari, ma faceva impressione. Diciamo che in una città di solito non è così evidente questa struttura, così, diciamo, proprio tipo un quaderno a quadretti, no? Che tu vedi tutte righe e linee che si intersecano. E appunto mi ricordo che la persona che era con me nell'aereo mi disse: ma guarda che questa è la struttura romana. Infatti dimostrai di essere un po' incolta in quel caso. E quindi appunto la struttura, quindi, di questo padiglione, la pianta proprio, è fatta seguendo, ricorda le città romane, quindi c'è una strada principale e poi proprio attorno a questa strada principale c'è il padiglione, si struttura il padiglione italiano, subito dietro ci sono le regioni italiane e poi c'è una grande piazza nel punto in cui le due strade, quindi questa strada, le due perpendicolari si incrociano. E poi quindi ci sono tutti i padiglioni dei vari paesi, ma insomma c'è una logica proprio, diciamo, strutturale con la quale tutto questo è stato fatto. Poi ci sono dei laghetti, ci sono delle montagnucce piccole, perché certo, non sono molto grandi, ma insomma già pensare, ecco, a tutto il lavoro che è stato fatto per realizzare semplicemente questo, quindi ci dà l'idea. Hanno creato una città, ecco, infatti, della grandiosità dell'opera, insomma. Infatti. E va bene, non trovo, avevo preso un'informazione della struttura, non la trovo più, comunque quando la trovo eventualmente ve lo dico meglio. E poi che cosa ci puoi dire invece del logo, di questa scritta Expo? Allora, ci puoi dire per esempio che la X di Expo è rappresentata dall'uomo vitruviano di Leonardo, mentre invece la O, sempre di Expo, è rappresentata dal mondo. Quindi hai la E, poi c'hai questa X dell'uomo vitruviano, la P normale, e quindi c'hai due lettere e due simboli. Quindi c'è il simbolo vitruviano, che ovviamente è associato, diciamo così, all'uomo rinascimentale, che si colloca al centro delle dinamiche del pianeta. E quindi appunto ci sono due elementi visivi diversi, cioè lettere e simboli che si alternano. E per quanto riguarda invece, ecco, vedi, anche questo mi sono andata a vedere, la scelta dei caratteri tipografici, è stato scelto un carattere di forma antica che si chiama Traian, quindi il carattere, il font di questa scritta si chiama Traian, che è il carattere ispirato alla colonna traiana, e quindi che coesistono in sintonia con le scritte che invece sono alla base di sempre della scritta, dove si dice appunto Expo Milano 2015 eccetera eccetera, Feeding the Planet, Energy for Life, alla base che invece Accurat, insomma, vedi, sono dei dettagli. Ma sei bravissima. Beh, no, non sono bravissima, in questo caso internet che meticolosa, internet che è bravissimo. Va bene. Ma per fortuna. Per fortuna sì. Per fortuna che abbiamo internet, che con infatti. Con poco riusciamo a sapere un sacco di cose. Infatti. Allora, io proporrei un altro brano musicale, sei d'accordo? Assolutamente sì. Sempre del tuo corregionale Giovanni Allevi, va bene? Beh, spero che piaccia a tutto il mondo. A tutto il mondo, sì. Stavo parlando in italo-fronde. Va bene, e allora ci troviamo fra pochi minuti, sempre qui con i colori dell'anima, a raccontarvi un po' di Expo 2015. A dopo! Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Allora Anna Maria, questo era Asian Eyes. Di chi? Giovanni Allevi. Sempre lui, sempre sì, stasera, oltre a dedicare la trasmissione Expo 2015, la dedichiamo anche a Giovanni Allevi. Sì, direi di sì, lo merita. Sì, veramente un artista veramente estremamente originale. Ma sai che io ricordo che quando ero ragazzina, quindi ero a scuola, avrò avuto forse 15 anni, se ne parlava già, lui più o meno dovrebbe essere un mio coetaneo, se ne parlava già di questo ragazzo prodigio che suonava in maniera incredibile. E adesso lui sta facendo un tour in tutto il mondo, insomma, è venuto a Bruxelles, ha fatto questa data con Bruxelles, ma poi continua a girare in tutto il mondo. Ho capito. Vabbè, peccato che non l'abbia sentito. Ma quindi è stato anche a Sanremo, non lo hai sentito? Neanche a Sanremo, pensa, me lo sono perso anche lì. E vabbè. Ha fatto... almeno a questo Sanremo, a qualche Sanremo fa l'avevo visto io. Questo Sanremo qui ha presentato la prima canzone che abbiamo ascoltato. Ah, ho capito, che era Loving You. Loving You. Dunque, allora, ecco, volevo solo riprendere un attimo sulla pianta dell'Expo 2015, perché secondo me è molto interessante. Infatti... l'area che, come sappiamo, prende per la maggior parte il comune di Milano, però per una piccola parte anche il comune di Rho, quindi tutta l'area di Expo 2000 è organizzata come un'isola, perché è circondata da un canale d'acqua ed è strutturata quindi secondo i due assi perpendicolari, si chiama della World Avenue, che appunto nella tradizione romana si chiamava Decumano, e del Cardo. Questa è la struttura, appunto, diciamo il nome tecnico, che appunto riprendono l'architettura delle città romane. Cioè c'è un principio di uguaglianza per cui tutti i padiglioni nazionali sono affacciati sul grande viale principale, i padiglioni nazionali. Quindi ecco, penso di aver dato un'informazione errata prima. E questa via principale, che è lunga 1,5 chilometri, cioè questo spazio lungo 1,5 km e largo 35 metri. Lungo il Cardo, che invece di 325 metri di lunghezza e 35 metri di larghezza, sono invece organizzati i padiglioni delle regioni e province italiane. E poi invece la confluenza dei due assi, che quindi sono questo Decumano e Cardo, che sono perpendicolari fra di loro, si crea una grande piazza che si chiama Piazza Italia, che è una piazza di 4.350 metri quadrati. E poi appunto, come dicevo, oltre a questo c'è Palazzo Italia, dove c'è quindi il padiglione del paese organizzatore, che in questo caso è l'Italia, che è poi affacciato sul Lake Arena, che è appunto un piccolo lago, poi c'è un teatro, c'è, come dicevo, questa collina artificiale. E mi pare che il Palazzo Italia è la struttura destinata a rimanere, mi sbaglio? Può darsi, sì, perché penso di averlo di aver letto che anch'io. Una di queste strutture, sì, hai ragione. Rimarrà fissa. Hai ragione. E vabbè, insomma, basta, poi ci sono altri dettagli, ma non voglio tediare oltre i nostri radioascoltatori. Con l'architettura, però insomma l'ho trovata molto così interessante, cioè mi piace, certo, che ci sia stato questo riferimento alle città romane. Allora, invece tu cosa volevi dirci? Ma io volevo parlarvi un attimo del Padiglione Zero, quelli che chiamano Padiglione Zero, che è stato curato da Davide Rampello e progettato da Michele De Lucchi. Introduce la visita del sito espositivo, quindi dovrebbe essere uno delle all'entrata, suppongo. Dunque, questo quando l'uomo ha prodotto dalla sua comparsa sulla terra fino ad oggi. Le trasformazioni del paesaggio naturale, la cultura e i rituali del consumo sono il punto di partenza per qualsiasi progetto futuro. Il Padiglione Zero è il luogo in cui raccontare questo straordinario percorso con un linguaggio emotivo e immediato. Poi qualcuno ha fatto delle domande a questi due signori, per esempio gli hanno chiesto che cosa racconta, e Davide Rampello ha risposto: vogliamo proporre un racconto che parte dalla memoria dell'umanità, passa attraverso i suoi simboli e le sue mitologie, percorre le varie fasi dell'evoluzione del suo rapporto con la natura, dall'azione di addomesticare il mondo animale e vegetale all'invenzione degli strumenti della lavorazione e della conservazione, e arriva fino alle forti contraddizioni dell'alimentazione contemporanea. Un percorso emozionale che da racconto universale si fa storia individuale. Poi gli è stato chiesto quali erano i tre motivi per visitarlo e lui ha risposto: conoscere, condividere ed emozionarsi. E infine è stato chiesto: quale futuro disegna? E Davide Rampelli ha risposto: secondo la visione agostiniana del tempo, passato, presente e futuro coesistono nell'animo. Il presente del passato è la memoria, il presente del presente è la visione, il presente del futuro è l'attesa. Ecco, ciò che l'esperienza di questo percorso intende lasciare nei visitatori è proprio la necessità di un'attenzione verso qualcosa di nuovo, diverso, altro. E invece poi è stata fatta una domanda: quale interpretazione il tema offre, a Michele De Lucchi. E lui invece ha detto: al suo interno diverse aree concettuali prendono per mano scenograficamente i visitatori, accompagnandoli alla scoperta del tema nutrire il pianeta, energia per la vita. Il Padiglione Zero offre un'esperienza di viaggio al centro della Terra, dove l'esplorazione avviene passando all'interno della crosta terrestre tra le grotte che sono state ricostruite in un'atmosfera di quasi totale assenza di luce. Le montagne della crosta terrestre sono la copertura sotto la quale si sviluppano le grotte, al centro della quale si trova la Valle della Civiltà. E insomma, ci hai tutto proprio profondo. Sì, ci hai portato in un'altra dimensione quasi. Io invece ti riporto per terra. Ok. E no, volevo dare anche qualche informazione su come si arriva proprio a questa fiera. Dunque, intanto ci si arriva facilmente attraverso la metropolitana, in particolare la linea 1, che è la linea rossa, e c'è la fermata che si chiama Ro Fiera, ed è quindi, fa parte della metropolitana milanese, che connette quindi la fiera e quindi l'Expo 2015 al centro cittadino. C'è poi la stazione ferroviaria di Ro Fiera Expo 2015, che è servita da treni regionali ma anche da treni ad alta velocità, e poi naturalmente ci si arriva attraverso le autostrade A4, A8 e A9, Milano, Como e Laghi. Ovviamente per chi viene da fuori, tipo noi, con l'aereo, e quindi, come sapete, a Milano ci sono tre aeroporti: Malpensa, Linate e Bergamo. quella di Linate sarebbe la più comoda, però insomma dipende anche poi dai prezzi la scelta, giusto? Assolutamente. Allora, il logo, dunque il logo l'abbiamo già detto, però il logo è il risultato di un concorso pubblico aperto agli studenti, questa cosa l'ho trovata simpatica, laureandi e neolaureati delle facoltà di architettura, design e arti, moda, grafica pubblicitaria e disegno industriale. E quindi poi c'è stata una commissione giudicatrice che è appositamente creata per questo evento, che ha valutato le proposte, e le prime due proposte sono state sottoposte ad una votazione pubblica attraverso una giuria popolare. È risultata vincitrice la proposta di Andrea Puppa, con la scritta multicolore di cui parlavamo prima, quindi azzurro, blu, insomma colori brillanti come dicevi tu, che ha ottenuto 4.747 consensi. Quindi questo è stato il primo, poi ce n'è stato un altro di una ragazza, Alice Ferrari, che invece aveva fatto l'uovo stilizzato e che ha ottenuto 2.622 preferenze. Il logo quindi rappresenta una scritta multicolore in cui si sovrappongono lettere e, come abbiamo visto, i simboli, come abbiamo visto prima. E appunto nella commissione che ha giudicato c'erano, tra gli altri, Giorgio Armani, c'era Daniela Piscitelli, Marco Pogliani, Giuseppe Sala, Luisa Boschietto, insomma tutte persone che comunque avevano a che fare o con il design o con la moda o con l'architettura, eccetera. E quindi insomma questa commissione ha scelto poi questo logo, che quindi, come dicevo, è stato realizzato da questo studente che si chiama Andrea Puppa, della scritta multicolore. Dunque, l'Expo che c'è stata prima di Milano è stata a Shanghai, e ho sentito dire di persone che sono state in Cina che grazie all'Expo, per esempio, l'aeroporto è stato completamente rifatto. Quindi è ovvio che quando ci sono degli avvenimenti così grossi, è un'occasione, in realtà, diciamo, uno stimolo, un incentivo per rimettere a posto una serie di infrastrutture. E secondo me ce n'è anche tanto bisogno in Italia, più che altro, credo, no, dal punto di vista del nostro orgoglio, io sono stata in Italia recentemente e vedere queste persone un poco sfiduciate non fa piacere, e magari questa cosa permetterà di recuperare un po' di fiducia, insomma di un po' di fierezza, un po' di, non si dice fierezza in italiano? Sì, penso di sì, sì, sì. Penso che si dica. Che veramente comincia a mescolare tutte le lingue, un disastro. Sì, sì. E quindi secondo me è molto molto importante, ed è giusto parlarne, perché è giusto che continuiamo ad essere fieri di quello che facciamo. Certo, assolutamente. Ieri non c'entra niente, ma ieri sera appunto c'era un servizio su Rai 1 che dicono che tutte le statistiche danno l'Italia come uno dei paesi più infelici dell'Europa, cioè hanno fatto delle indagini e pare che l'italiano oggi, che invece in passato infelice, era considerato molto allegro, scansonato, che cantava eccetera, invece adesso pare che siamo diventati un po' tristi, un po' sfiduciati. E quindi sì, magari una esposizione come questa, io insomma non ho ancora programmato, ma ci vorrei andare, quindi spero vorrei proprio andare anch'io, magari ci organizziamo. E poi no, sempre qualche altra informazione, quindi tutta la gestione e anche la proprietà dell'area, come abbiamo detto che l'Expo sarà tra il Comune di Milano e il Comune di Rho, è affidato ad una fondazione, insomma ad una società di cui fanno parte la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Fondazione Fiera Milano, la Provincia di Milano e il Comune di Rho. E poi c'è in tutto questo, in mezzo anche ci sono le Poste Italiane, quindi è una struttura veramente molto complessa, ma c'è anche naturalmente un comitato scientifico, perché comunque parliamo di scienza, e questo comitato scientifico è rappresentato da Per Pinstrup Andersen, che è un economista agrario, da Joachim von Braun, che è un membro di un gruppo che si occupa appunto di ricerca nel campo dell'agricoltura, Ismail Seraljedin, che invece è direttore della Biblioteca Alessandrina, poi c'è invece una professoressa italiana che si chiama Claudia Sorlini, che è una professoressa di microbiologia all'Università di Milano, c'è un professore che si chiama Francesco Salamini, che invece e professore, ma sempre all'Università di Milano. Quindi queste cinque persone fanno parte del comitato scientifico. Allora, io proporrei ancora un brano musicale, poi torneremo per l'ultima parte della trasmissione che appunto ci ha visto in questa introduzione a Expo 2015 e ovviamente continuiamo con Giovanni Allevi. Che dici? Io direi di sì, direi così. Ci consiglia, concilia la serata, il sonno infatti, magari anche, infatti. E ci rilassa. Va bene, allora tra pochi minuti, come sempre, mi raccomando, rimanete sintonizzati con I Colori dell'Anima e a dopo. Allora, sono le 21:48 e siamo quasi alla fine di questa trasmissione di oggi dei Colori dell'Anima con Anna Maria e Rosanna dedicata a Expo 2015, ma per completare magari possiamo dare delle informazioni pratiche. Per i biglietti. I biglietti si possono prendere sia all'ingresso dell'esposizione che dal sito ufficiale. Poi vi consiglio di andare a guardare perché ci sono diverse tipologie di biglietti per le categorie, i senior, i giovani, insomma. Infatti, allora, i biglietti hanno costi diversi. Per esempio, se uno prende un biglietto per un giorno solo, quindi per una data fissa, costa 27 euro, questo è il minimo. Però se lo prendi per un giorno che non sai, quindi a data variabile, costa 32 euro. Se lo prendi per due giorni sono 57 euro, quindi i prezzi sono molto diversi. I senior pagano 25, quindi già un po' di meno. E quindi insomma ci sono vari prezzi. Allora, diciamo che è ovvio che quando poi uno va lì deve tener conto del fatto che se c'è una grande affluenza può anche rischia di non entrare. Però insomma comunque l'affluenza giornaliera è di 250.000 persone, quindi dovrebbe essere abbastanza semplice. Si può entrare a partire dalle 10 di mattina fino alle 23 diciamo quello che loro aspettano a Milano sono circa 20 milioni di visitatori da tutto il mondo, quindi insomma è un grande numero. Non so adesso come bisogna ragionare, diciamo, per cercare di andare in un giorno in cui non c'è una grande affluenza. Sicuramente, secondo me, è sconsigliabile andare il 1° maggio, proprio lo escludo. Sabato e domenica lo escluderei. Sì, uno dovrebbe trovare un giorno, magari attorno al fine settimana, in cui diciamo si può andare. Però stavo dicendo che il biglietto aperto, cioè quello dove tu non decidi il giorno, costa 32 euro, però ovviamente quando poi si avvicina la data devi fissarlo, quindi devi decidere la data. Ah, comunque nel bisogna momento, decidere. Sì, qualche giorno prima devi decidere quando vai. Allora, a quel punto puoi anche non decidere, però penso che poi non hai accesso a tutte le aree. Comunque, insomma, una volta che l'hai deciso e che quindi hai fissato la data, non la puoi cambiare più. Quindi è importante che essere sicuri che uno va ad una certa data e per cui prende solo quello. Quindi stavo dicendo, l'apertura dalle 10 alle 23. Ci possono essere degli sconti per esempio per i gruppi, ma non sono degli sconti molto importanti. Più che altro ci sono invece degli sconti per le famiglie, tipo una mamma e papà con due bambini che tutti insieme pagano mi pare poco più di 80 euro. I bambini da 0 a 3 anni non pagano, però appunto da 14 anni fino a 65, diciamo, è l'età in cui si paga il prezzo intero, e poi appunto dopo 65 anni c'è la fascia senior. Si possono anche comprare, però non sono ancora disponibili, dei carnet di biglietti che valgono 2-3 giorni, perché di solito è consigliabile andare 2 giorni, nel senso che l'area è così vasta che quindi con un giorno non si riesce a vedere tutto, e allora è consigliabile prendere un biglietto da 2 o addirittura da 3 giorni. Naturalmente tutto questo andate sul sito www.expo2015.org/it/biglietti e lì trovate tutte le informazioni di tutti i tipi. Per quanto riguarda, quindi, l'unica età gratis, come dicevo, è da 0 a 3 anni e i bambini che abbiano età inferiore a 14 anni devono essere accompagnati da un adulto, però vuol dire che un quindicenne invece può andare anche da solo, non ha bisogno dei genitori. I biglietti saranno anche in vendita per l'ingresso serale, quindi sì, perché ci saranno degli avvenimenti che saranno organizzati di sera, però al momento non sono disponibili, e quindi si parla di, in questo caso, di Expo by Night, che saranno quindi disponibili, si potrà entrare cioè a partire dalle 18:30. E come dicevo, invece, per i gruppi non ci sono grandi riduzioni, però è possibile avere una piccola riduzione. Poi, se appunto si tratta di una struttura scolastica, quindi non so, una classe di ragazzi, anche qui ci sono dei programmi e quindi si possono avere dei biglietti, diciamo, più interessanti. Allora, se acquisto... Una domanda che ci può essere: se acquisto un biglietto con la data aperta, quando è consigliato effettuare la conversione del biglietto confermando la data di visita? Ecco, in questo caso loro consigliano di confermare questa data non appena c'è la certezza assoluta della data. Vabbè, insomma, vabbè, mi sembra ovvio, non c'è niente di nuovo, perché appunto, come ti dicevo, Anna Maria, una volta che tu hai confermato la data, poi non puoi cambiarla. Poi non puoi cambiare. Beh, immagino che abbiano un numero controllato di persone per questioni di sicurezza, e quindi sia importante sapere esattamente quante persone ci sono all'interno. Infatti. E, comunque, per tutte queste domande, diciamo, veramente molto terra-terra, molto pratiche, c'è un sito proprio con domande e risposta, e quindi si possono sapere tutte queste cose. Io penso che la cosa più semplice, come dicevo prima, è di comprare il biglietto dal sito internet, dovrebbe essere molto semplice. Sì, comprarlo online. Sempre lì, nel sito, ci sono una serie di rivenditori autorizzati, che sono quindi che vendono i biglietti, però chiaramente... Al giorno d'oggi, visto che si fa tutto su internet, e poi soprattutto noi emigrati, noi che siamo lontani, che non fisicamente sappiamo, siamo qui. Benissimo, insomma, che si fa così, quindi. E vabbè, allora, quindi che cosa ci resta che augurarvi? Una buona notte. Una buona notte, ma naturalmente un buon divertimento quando andrete all'Expo 2015, sicuramente ci andrete, no? Assolutamente, tutti ci andiamo. Tutti ci andiamo, no? Infatti. Ma io ci sto pensando sto già organizzandomi per poterci andare. Va bene. Allora, non ci resta che augurare, quindi, come dicevi tu, buonanotte, ma anche buona serata, insomma, non è ancora notte, a tutti i radioascoltatori, a te ovviamente. A te, Rosanna. Grazie. Grazie. E quindi i colori dell'anima torneranno lunedì prossimo alle 21, adesso invece lasciamo la trasmissione ai nostri colleghi greci, che quindi continueranno per fino al 23, e noi ci risentiamo prossimamente, in particolare Anna Maria ed io a fine marzo, ma appunto seguiteci sempre su Radio Alma 101.9 e anche nel nostro sito internet, che è appunto radioalma.eu. E a presto, alla prossima, buonanotte, alla ciao prossima. Ciao.